Care amiche, cari amichesse, care lavoratrici, cari lavoratori, care lavoratresse, benvenute alla puntata arancione di Folk Oddio. Dopo la puntata gialla sul 18 aprile e quella rossa sul 25, oggi, 2 maggio, parliamo di lavoro. Quello che sentite in sottofondo è l'inno del 1 maggio, che niente meno è Va pensiero con parole però di Pietro Gori, ma oggi ci muoviamo su canti molto più semplici, quasi tutti fatti su 2 o 3 accordi. Come sapete, Folk Oddio, che vi presentano qui su Radio Virus, Le Canzoniere, nasce appunto per mettervi in grado di riprendere in mano le vostre chitarrine, se avete l'opportunità o il privilegio di farlo, e riscoprire il piacere della musica fai da te, che ci parla dei tempi di merda che viviamo oggi o abbiamo vissuto anche in passato. Il primo pezzo con cui cominciamo ha moltissime varianti, è stato reso celebre a metà degli anni 90 da Daniele Sepe, però a metà degli anni 60 dal compagno di Adriana Doriani, Matteo Salvatore, che lo incise in un disco che si chiama Il Lamento dei Mendicanti, pubblicato dai Dischi del Sole nel 1966. Ve lo facciamo sentire in entrambe le versioni. Quella di Matteo Salvatore è su 2 accordi, si bemolle e fa settima. Non so se questi bemolli, queste cose qua, derivino dal fatto che bocce avevano dei ponti o accordavano le chitarre, boom, semitono sopra, non ho idea, lo potete spostare in La maggiore, comunque vabbè, si bemolle, lo fa e fa settima. Così, arpeggiato con un ditino che scende giù. Per invece la versione di Daniele Sepe, preparatevi sempre tonalità bemolli. Daniele Sepe non lo suona sulla chitarra, ma fa un arrangiamento bandistico perché coglie il tono funebre di questo canto che c'è. E lo fa in fa, quindi sarebbero fa, do, settima, fa, ma ci aggiunge quel geniaccio di Daniele Sepe, il re minore, per cui si va fa, do, ma poi si cade sul re e poi di nuovo do settima, sempre re minore, do settima, re minore, do settima, e si casca sul si maggiore, si bemolle maggiore e si conclude qua. Beh, questo per dirvi in anticipo gli accordi nel caso in cui suonaste in contemporanea, però adesso di seguito vi facciamo sentire prima Matteo Salvatore e poi Daniele Sepe, Padrone mio. Padrone mio, ti voglio arricchire. Padrone mio, ti voglio arricchire. Come nucchina i voi fatti. Come nucchina i voi fatti. Quando sbaglia dammi le botte. Quando sbaglia voglio l'amore te non ne caccia. I tengli figli che vogna lo pena, chi ce lo daia e lutata. Padrone mio, ti voglio arricchire. E abbiamo sentito Padrone mio, prima nella versione di Matteo Salvatore, 1966, Il lamento dei mendicanti, e adesso invece nella versione del 1995 di Daniele Sepe, che trovate invece su Spiritus Mundi. Per quale motivo ho presentato Matteo Salvatore come il compagno di Adriana Doriani? Perché nel 1973 Matteo Salvatore, Adriana Doriani, la uccide. Matteo Salvatore ha trasmesso, in parte composto, moltissimi canti della sua zona, il Foggiano. Lui è nato poverissimo e apprese giovanissimo da un violinista cieco un vastissimo repertorio. Quando poi incontra Adriana, Adriana gli insegnò a leggere, a scrivere, firmò assieme a lui una grande quantità delle canzoni che pubblicarono insieme, le figura come corista. E diede un contributo probabilmente grandissimo di cura e artistico al lavoro di Matteo Salvatore, che fu ripagato con gelosie, paranoie e attacchi di violenza. E le vicende sono raccontate in un libro del 2018, il cui titolo adesso non ricordo. Se cercate Matteo Salvatore e Adriana Doriani, trovate un articolo del Manifesto che ne parla, potete basarvi su quello. Scusate, qua non ho fatto la ricerca bene. Tutto questo per dire che siamo molto grate qui alle canzoniere, a Daniele Sebe in particolare, che abbia trasmesso questa canzone che noi continuiamo a trovare bellissima. Ci ricordiamo comunque che, così come il padronato, anche il patriarcato, anzi scusatemi, molto più del padronato, il patriarcato è trasversale. Sono femminicidi i poveri ignoranti tanto quanto i poeti laureati. E qua siamo su Folk. Oddio, ci potete scrivere a folk.oddio@canaglie.org e siamo anche su Radio Virus. E visto che abbiamo parlato adesso di femminicidio, spero che abbiate sentito ieri il podcast a cura di Non Una Di Meno. E tornando invece ai canti di lavoro, come non ricordare, un po' ce ne siamo già accorte, che i canti di lavoro sono canti di fatica, sono anche lamenti. Uno dei miei preferiti si canta a voce sola. Fu raccolto da Graziella Di Prospero, di nuovo ne avevamo parlato nella prima puntata, nel 1975. Fu raccolto con il nome generico di Canto alla Uttera, cioè Canto alla maniera dei butteri, e qui ve lo presentiamo invece in una versione di quasi 30 anni dopo, 2004, sul primo disco della banda Iorona, che si chiama Romana, ed è stato pubblicato con un pezzo del primo verso del canto, quindi Il Bove Rosello. Banda Iorona, il Bove Rosello. padrone poverello, poi ci darà da bere e da mangiare. C'hai la faccia franca, a lavorar ce l'hai la vita gioca. E il padrone mio è nulione, che te fatica non se sazia mai. Sempre quella stessa opinione, le faccio cento mutate alla giornata. E la mattina e sera con le stelle, questo padrone ci leva la pelle. Padrone ci leva la pelle, la stende per le fratte e poi la vende. E questo che abbiamo sentito era Il povero Sello, o Canto alla Uttera, eseguito dalla banda Llorona sul loro primo disco Romana del 2004. E questo canto, o meglio il testo di questo canto, assieme ad altri stornelli laziali, prima ancora della pubblicazione di Graziella di Prospero nel 1975, era stato rielaborato dal canzoniere internazionale che lo pubblicò in un disco del 1971. Tra parentesi, assieme ad altri stornelli che nel 1973 avrebbe poi pubblicato, credo nella versione originale, a giudicare dalla melodia, Il canzoniere del Lazio, sempre sul loro primo disco che è Quando nascesti tune. Però adesso da Il bastone e la carota, dischi dello Zodiaco 1971, eseguito dal canzoniere internazionale, sentiamo questo gruppo di stornelli titolato Alla mattina con la luna. Alla mattina con la luna e alla sera con le stelle ce la vonno levar la pelle, ce la vonno levar la pelle. Alla mattina con la luna e alla sera con le stelle ce la vonno levar la pelle, ce la vonno levar la pelle. Alla mattina con la luna, alla sera con le stelle, ce la vonno levar la pelle, non gliela volemo da. Fate merenda, fate merenda, e non se parla de fa colazione. L'ha messa su sta bella usanza è stato quel cornuto del padrone. E notte notte lo padron sospira, dice che è stata corta la giornata. Caro padrone non sospira tanto, quello non fatto io, lo farà un altro. Caro padrone non sospira più, né, quello non fatto io, lo farai tu, né. Caporale, caporale a noi ci dice, ragazzette lavorate, che se no siete cacciate, che se no siete cacciate. Caporale, caporale, noi ci dice, ragazzette lavorate, che se no siete cacciate, dalla spia che va al padrone. E la spia la va veloce all'ufficio del padrone. Ragazzette state buone, ragazzette state buone. E la spia la va veloce all'ufficio del padrone. Ragazzette state buone, se volete lavorare. E alla mattina con la luna e alla sera con le stelle, ce la fanno le va la pelle. E alla mattina con la luna e alla sera con le stelle, ce la fanno le va la pelle. Noi gliela volemo dare. E quello che abbiamo sentito è Alla mattina con la luna, interpretato dal canzoniere internazionale nel 1971 su un disco che si chiama Il bastone e la carota. Non vi ho detto su quali accordi si può fare, ma questo è assolutamente fattibile su due accordi. Loro lo fanno in re maggiore, quindi re e la, la settima come vi pare. E, è estremamente semplice. I testi sono appunto mutuati da testi di stornelli preesistenti. Se torniamo al Bove Rosello, c'è un tema molto carino, a parte questa cosa super tragica del padrone che ci prende la pelle, la stenne per le fratte e poi la venne, e alla mattina con la luna e alla sera con le stelle. Questi ultimi stornelli che abbiamo sentito parlano anche di caporalato, e il Bove Rosello, dicevamo, parla anche del padrone che ha la camicia bianca. E il padrone con le braghe bianche è un altro grande tema di questi canti, che parlano appunto dei padroni che devono sganciare i soldi e però hanno i vestiti puliti, perché il padrone non lavora, e c'è appunto una differenza tra lavorare e comandare, che ci porta, saltando bellamente il canto a cui mi sono riferito prima, che è Sciur padron dalli belli braghi bianchi, ma li potete trovare online, Fuera li palanchi, Fuera li palanchi. È un canto delle mondine che invece ci dà il destro per passare al canto delle mondine, da cui prende il titolo di questa nostra terza puntata di Folk. Oddio, provate voi a lavorare. Scriveteci chiaramente a folk.dio@chianaglie.org e passiamo appunto al canto principe di questa puntata, che è Se 8 ore vi sembrano poche. Le 8 ore di lavoro furono stabilite qua in Italia soltanto nel 1923, mentre invece il 1° maggio è stata è stato istituzionalizzato come festa del lavoro almeno a partire dalla fine dell'Ottocento, con i moti di Chicago, poi la Seconda Internazionale qua in Europa. Detto tra parentesi, la Chiesa Cattolica si decide soltanto nel 1955 a istituire la festa di San Giuseppe Lavoratore, così anche i lavoratori credenti possono celebrare il fatto di non essere sfruttati per un giorno. Comunque, prima forse era troppo comunista e laico per festeggiarlo il 1° maggio. E quello che vi facciamo sentire adesso è una versione di Se 8 ore vi sembrano poche, in questo caso è cantata Se 8 ore sono troppo poche, cantata dalle Mondine di Vercelli, pubblicata sui Dischi del Sole in un'antologia della canzone comunista in Italia. Questa è una versione che, come capirete dal testo, data più o meno alla fine degli anni 40, nonostante la versione originale sia senz'altro dell'inizio del Novecento. E gli accordi sono, siamo sempre in re maggiore, re e la nella strofa, il ritornello sol, re, la, re. Non c'ho la chitarra a portata di mano, ma magari ci torniamo dopo. Adesso, Se 8 ore sono troppo poche. Se 8 ore sono troppo poche, provate voi a lavorare e troverete differenza di lavorare e di comandare, e sentirete la differenza di lavorare e di comandare. Con Mario Selva, se non la smette, arrestare i lavoratori. E noi faremo come a tutte piazza Loreto t'ammazzere. E noi faremo come a tutte piazza Loreto t'ammazzere. E noi faremo come la Cina, suoneremo. Quella che abbiamo sentito era Se 8 ore son troppo poche, cantata dalle Mondine di Vercelli in re maggiore, quindi la. O Mario Scelba, se non la smetti di arrestare i lavoratori, noi ti faremo sol come al duce re, in piazza Loreto ti ammazzeremo, quindi in piazza Loreto la ti ammazzeremo. E di nuovo sol, re, la, re per fare. Noi faremo come al duce in piazza Loreto ti ammazzeremo. Ecco qua. Ci tenevo a presentarvi questo canto tramite questa strofa. Nel frattempo mi sto spostando vicino e lontano da questo microfono, chissà che cosa succede. Pensate che amiche musiciste di fama internazionale mi hanno fatto i complimenti per come è registrato. Se solo sapessero in che condizioni qui stiamo registrando. Comunque, come capite da questa strofa, il canto data dopo la morte di Mussolini, in questa versione, e probabilmente proprio agli anni in cui Mario Scelba era primo ministro. Se vi ricordate quel 18 aprile, anche là si parla di Mario Scelba, potete sentire il pezzo nella prima puntata di questo podcast. E di Scelba ricordiamo le implicazioni torbide con Salvatore Giuliano e la strage di Piazza della Ginestra di esattamente 73 anni fa, esattamente il primo maggio del 1947. Ricordiamo anche che Mario Scelba rafforzò la Celere rendendola praticamente un'istituzione paramilitare, fu molto lodato anche poi ex post da Indro Montanelli perché questi comportamenti polizieschi diminuirono la quantità di crimine politico qua in Italia, dove per quantità di crimine politico probabilmente si intendeva proprio la possibilità di un'insurrezione comunista dopo la Resistenza. Ma tornando alla Sicilia, chiudiamo un po' questa parabola che è cominciata con il cantante femminicida che strangola la compagna e andiamo adesso invece in Sicilia dalla cantante che provò a uccidere il marito che si era giocato la dote della figlia perdendola e fu carcerata e poi uscì di carcere ma ci rientrò condannata per furto e poi uscì e lavorò in sacrestia e lì fu molestata da un prete e diede riparo alla sorella in fuga dal marito violento. Invano, perché il marito trova la sorella e la uccise, e stiamo parlando niente meno che di Rosa Balistrieri, che adesso ci canta un canto che non sono sicuro sia antico o originale, ma ci tengo comunque a presentarvi, U contadino sutta lo zappuni, mi perdonino le amiche sicule se storpio il dialetto, lei lo canta in la bemolle minore, io qua suppongo che o la registrazione sia un semitono sotto o la chitarra sia stata accordata un semitono sotto o magari sono diventata sorda io, che è un'altra possibilità, su 4 accordi che sono i soliti del giro minore, quindi spostando in la minore La minore, Re minore, Mi maggiore. Comunque adesso ci sentiamo, O contadino, sutta lu zappuni, Rosa Balistrieri. Insomma, questa che abbiamo sentito era U contadino sutta lo zappuni, cantata da Rosa Balistrieri, di cui speriamo di farvi sentire altre cose in futuro, e la vogliamo dedicare alle pochissime compagne siciliane che popolano la città di Milano, ma soprattutto la vogliamo dedicare alla nostra ragazza immagine, Lesa Maestà, e la sua inseparabile compagna, Donna Vincenzina, che in questo momento sono impegnatissime nel ritorno alla permacultura sostenibile nella provincia di Ragusa. Ma torniamo a lamentarci su Folk, oddio. Vi ricordo che potete scriverci a folk.oddio@canaglie.org. Se 8 ore vi sembrano poco, provate voi a lavorare. Lavorare stanca, lavorare sfianca, e adesso magari a lavorare non ci andiamo, però anche chi ha il privilegio di non aver perso il lavoro e lavora da casa, continua a farsi le sue 40 ore, che non sono poche 40 ore di lavoro in una settimana. Che tempo resta dopo 40 ore e per che cosa? E questo ve lo dico io che parlo da una posizione di privilegio estremo, perché io adesso sto lavorando le mie 40 ore e va tutto bene, a parte il fatto che, per esempio, mi sta facendo male la schiena a lavorare rattrappita a un tavolino di casa qua da qualche parte qua a Milano. E quindi mi è tornato in mente un lamento del Viterbese. Siccome la registrazione, che pure si trova in giro per internet, del disco, dello spettacolo a cura di Dario Fo, Ci ragiono e canto, in cui questo canto appunto si trova, non sono riuscito però a trovarla decente per il podcast. Poi forse ci sono riuscito, nel frattempo ho deciso che potevo cambiare idea, e siccome insomma mi sentivo anche un po' come la figlia mainata di Fausta Vetere che è Lucca in Donna Sabella e Andrea Segovia, me la sucate cantata e suonata da me misma. E quella che sentiamo adesso è Sono stato a lavorare a Montesicuro. sono stato a lavorare a monte sicuro. Se tu sapessi quanto ho guadagnato, c'è manca quattro Allora, abbiamo appena ascoltato, eseguita dalla Carlessa, sono stato a lavorare a Montesicuro, un po' di note su questo pezzo qua che io trovo fantastico, bellissimo, meraviglioso, che tra l'altro è stato anche inciso da Graziella Di Prospero ancora una volta, più tardi, perché lo spettacolo di Dario Fo è di qualche anno prima, Ci ragiono e canto, se lo cercate sull'internet lo trovate. E qui si parla chiaramente di sacrifici per lavoro, non il lavoro privilegiato e con la camicia bianca che per esempio faccio io, ma di lavoro nei campi in cui per pochissimi soldi ci si spezza la schiena. E quando in questo pezzo si dice c'è manca quattro pave l'anno scudo, si parla di paoli e di scudi. Uno scudo sono 10 paoli, uno scudo divennero 5 lire nel 1868, 5 lire in quell'epoca erano più o meno 25 euro, e quindi appunto 25 euro, 6 scudi sono i 2/3, insomma siamo circa sui 15 euro per una giornata di lavoro in cui ci si spacca il lavoro, in cui ci si spacca la schiena. Notate le somiglianze con il lavoro nei campi che facciamo adesso, o meglio che facciamo fare spesso a minoranze razzializzate a cui non vengono dati i diritti di cittadinanza e via dicendo. Tutto questo per avere i pomodori al supermercato qua sotto casa. Spaccarsi la schiena non ha prezzo, 15 euro sicuramente non ripaga da questo. E questa canzone che abbiamo sentito ora è in re minore, in realtà sospetto che sia nata senza nessuna forma di accompagnamento. Io l'ho un po' complicata con l'arrangiamento che più o meno è quello che si sente sui dischi del sole. Quindi il re minore c'è tutto un mignolino che fa la nota al tono sopra, quindi il re minore diventa re minore quarta, perché qua c'è il sol. E sempre sulla strofa si fa sul sol minore, che però parte con la nona, ma è perché c'è il la, sempre il mignoletto, e giù di nuovo, e sulla c'è manca quattro pa, la minore al quinto tasto e la maggiore settima, sempre stessa posizione con le altre tre ditina, pa ve la scudo. E poi perché stiamo proprio Guitar Hero siamo saliti sopra al decimo a fare il re minore qua, sempre col mignoretto che ci fa il mi. Tutta sta roba ovviamente non è necessaria, perché sto pezzo si fa tranquillamente restando giù in prima posizione e re minore, no? Sono stato a lavorare a Montesicuro, quindi re e sol minore. Se tu sapessi quanto ho guadagnato, ci manca 4 pavele a uno scudo, o meglio, facciamo la strofa più figa, il ritornello più figo. Che parecchi imbrigante so crepato. Insomma, ricordiamocelo, che questo lavoro finto dipendente tendenzialmente arricchisce padroni e briganti e caporali più di noi. E per dire questa cosa siamo in re minore, re, sol, sol, la, la settima, re. E questa era Sono stato a lavorare a Montesicuro. E passiamo adesso al prossimo, invece, canto, di tono completamente diverso. Finalmente una voce maschile, la versione milanese di un pezzo che esiste in 1000 versioni. Una delle prime registrazioni si basa sulla ricerca di Caterina Bueno in Toscana e sono gli stornelli della Leggera. In Toscana, dove lavorava Caterina Bueno, Leggera era un treno di lavoratori che trasportava appunto i lavoratori a fare lavori di fatica, sempre situazioni di caporalato e via dicendo. E immaginate adesso quali sono i canti dei lavoratori che vengono trasportati per lavorare nei campi. Molto probabilmente non sono più in italiano, non perché non si canti più, ma semplicemente perché questi lavori li abbiamo appunto delegati in gran parte. E a proposito di versioni che esistono di altri canti, vi ricordo sempre che il nostro concorso senza premi Sorelle Partigiane è sempre aperto. Se conoscete canti della resistenza al femminile, scriveteci, fatecelo sapere a folk.dio@canaglie.org. Vi ricordo anche che moltissime informazioni sui canti che presentiamo si trovano su antiwarsongs.org e ildeposito.org. Antiwarsongs con bibliografia e il deposito con accordi, che non sono sempre giusti, ma in quel caso folk, oddio, le canzoniere sono qui per aiutarvi, quindi scriveteci, scriveteci, scriveteci. Insomma, torniamo a note più giocose. È un piacere presentare appunto la versione milanese di questo canto, versione milanese perché segue lo schema dei 7 giorni della settimana, qui comunque insomma, che è la stessa cosa che si sente nella Leggera di Caterina Bueno, così come si sente in un canto giocoso che è La mia mamma la ver chi fila, e che potete sentire, mi sembra, sempre su Bella Ciao del Nuovo Canzoniere Italiano. È un piacere appunto presentarvi qui la versione milanese nella locomotiva economica di questo grande paese scagliato a tutta gallara verso l'abisso di ignoranza, crassa e sopraffazione e capitalismo che ci attende. Ed ecco a voi, cantata da Nanni Svampa, la canzone del muratore. Lunedì poi è giorno San Crispino, mi piace bere il vino, non voglio lavorare, la la la la la la. Il lunedì poi è il giorno San Crispino, mi piace bere il vino, non voglio lavorare. Martedì poi è il giorno seguente, non voglio far niente, non voglio lavorare, la la la la la la. Il martedì poi è il giorno seguente, non voglio far niente, non voglio lavorare. Mercoledì poi mi casca giù il martello, è giusto per quello, non voglio lavorare, la la la la la la. Il mercoledì poi mi casca giù il martello, è giusto per quello, non voglio lavorare. Il giovedì poi è fiera Bussolengo, io vado a Remengo, non voglio lavorare. La la la la la. Il giovedì poi le fiero a Bussolengo, io vado a Remengo, non voglio lavorare. Il venerdì poi è il giorno di dolore, è morto il Signore, non voglio lavorare. La la la la la la. Il venerdì poi, nel giorno di dolore, l'è morto il Signore, non voglio lavorare. Il sabato poi, nel giorno di paga, per mal che la vaga, non voglio lavorare. La la la la la la. Il sabato poi, le giorno di paga, per mal che la vaga, non voglio lavorare. Ma viene la domenica, mi tiro sul cantone, aspetto il padrone che venga a ripagar. La la la la la. Ma viene la domenica, mi tiro sul cantone, aspetto il padrone che venga a ripagare. Arriva il padrone, l'è tutto arrabbiato, va via vigliacco, va via di qua, la la la la la la. Arriva il padrone, l'è tutto arrabbiato, va via vigliacco, va via di qua. Io son della leggera e poco me ne importa, che vaga in sui losti alla fabbrica il padrone, la la la la la la. Io son della leggera e poco me ne importa, che il vaga in su l'ostia, la fabbrica è il padrone. E questa che abbiamo sentito è la canzone del muratore, cantata da Nanni Svampa, in realtà probabilmente già raccolta e cantata da Norma Midani e Mimma Torri, la prima delle quali partecipò negli anni 60 a uno degli spettacoli appunto di Ci ragione e canto di Dario Fo, che contiene anche Sono stato a lavorare, che abbiamo sentito prima, fatta da Mimisma, e Le otto ore, altre amenità, alcune delle quali magari riusciamo ad ascoltare e suonare insieme. E questa canzone che ha cantato Nanni Svampa, la canzone del muratore, si fa su due accordi per la strofa e lui l'ha fatta in re. Son della leggera e poco me ne importa, che vaga in sui losti alla fabbrica il padron. Re la e invece ritornello. Io son. Perché la fa in questa tonalità? Impossibile. Io son della leggera e poco me ne importa, quindi re sol, re re re re sol, sol sol sol sol sol sol re re, che va, si minore vaga in si l'ostia, si minore mi minore, si minore mi minore, la fabbrica e il padrun, che vaga in su l'ostia, la fabbrica e il padrun. Io devo fare l'Erasmus qua a Milano per imparare sta roba. Comunque ci tenevo a ribadire il concetto, che vaga in su l'ostia, la fabbrica e il padrun. Ma torniamo adesso a fabbriche, versioni coesistenti di canti. Torniamo alla giovannona nazionale, Giovanna Marini, che qui, con la sua voce un po' piegata dal tempo, bisogna dire, ci presenta una versione aggiornata e allungata di Un canto delle mondine, La facciamo seguire da una voce fuori dal coro, preceduta dalla sua introduzione originale, una parodia, ma di una realtà che in realtà vorremmo schiacciare come un brufolo. Il canto che stiamo per sentire è Ama chi ti ama, suonato nella accroccatissima tonalità di La bemolle maggiore, non so perché, lo potete poi spostare, comunque anche questo sempre su due accordi se vi va di seguirlo, La bemolle maggiore, Mi bemolle maggiore, e qua la sentiamo appunto cantata da Giovanna Marini e altre e altri, dalla cantata per Riace. Ama chi ti ama, non amare chi ti vuol male, specialmente il caporale e i padroni che sfruttano te. Sono nata risaiola, risaiola di Reggio Emilia, ho lasciato la mia famiglia per venire a lavorare, per venire a lavorare. Ho lasciato la casa mia, 40 giorni dovrò restare, sempre curva sul lavoro. Ama chi ti ama, non amare chi ti vuol male, specialmente il caporale e i padroni che sfruttano te. La signora viscosa, gli operai ci mandano a dire, signora viscosa, ogni giorno noi rischiamo di non far ritorno, c'è il rimborso per la salute, ma la vita chi ce l'ha ridata? Conversano nel 1971 il vescovo cacciò il prete, il parroco, perché non voleva che si parlasse a favore del divorzio come lui invece aveva fatto. E allora le donne affezionate al loro parroco sono corse al vescovado, hanno tirato fuori tutte le carte, hanno buttato tutto per aria, tirato le sedie, sfasciato i mobili. Il vescovo è corso a correre ai ripari con la macchina all'autista e il vescovo, e sono scomparsi tutti e tre, macchina, autista e vescovo. Poi è arrivata una voce in Vaticano che diceva: ridacci il nostro parroco o non rivedi più il tuo vescovo. Noi diciamo a Conversano: muore il polpo nella sua stessa acqua, ora a dire ve lo mandiamo, state attenti, finisce così. Ama chi ti ama, non amare chi ti vuol male, specialmente il caporale e i padroni che sfruttano te. In Sardegna siamo italiani solo per pagare le tasse, se voi dite lotta di classe siamo pronti ad andare più in là. Più dell'Onsa a Faenza per una delocalizzazione, ma non pagherà il padrone, tutti a casa e non se ne parla più. Ama chi ti ama, non amare chi ti vuol male, specialmente il caporale e i padroni che sfruttano te. Per cantare con il coro siamo andati a Marzabotto, tutto il male che è stato fatto dentro il cuore ci resterà. Quanto sangue fu versato, quanta rabbia e disperazione, quanto caro abbiamo pagato per la nostra libertà. Ama chi ti ama, non amare chi ti vuol male, specialmente il caporale e i padroni che sfruttano te. A Busalla l'oleodotto, dentro il fiume il petrolio ha versato, fino a Genova è arrivato, ma che prezzi dobbiamo pagare? Olio, non petrolio, la Lucania le idee più chiare, niente più trivelle al mare, della Total, dell'Eni e la Shell. Un ragazzo friulano, cittadino del mondo intero, per te Giulio e il tuo pensiero, noi vogliamo la verità. Ama chi ti ama, non amare chi ti vuol male, specialmente il caporale e i padroni che sfruttano te. Alla nave dei migranti tutti quanti gli chiudono i porti, i giornali contano i morti, ma noi vivi vogliamo salvar. Pomodori, San Marzano, mele a nurche e bere spadone, ogni frutto la sua stagione, ma non cambia la schiavitù. Sotto il sole di Cerignola, sul ponteggio 13 ore al giorno, e se inciampo alla cazzuola, solo a quella mi posso attaccar. Sotto il sole di Mondragone, a raccogliere i pomodori, 20 euro mi dà il padrone, di dolori 21 ce n'ho. Sotto il sole di Lampedusa, chiedo scusa alla mamma mia per quel giorno che venni via, nessun giorno ritornerò. Sotto il sole di Ponte Galeria conto i giorni all'incontrario, non mi basta tutto il calendario per sapere quando uscirò. Sotto il sole del Salento prego Dio che s'alzi il vento e allontani il rumore del mare che il mio cuore fa sospirare. Ama chi ti ama, non amare chi ti vuol male, specialmente il caporale e i padroni che sfruttano te, specialmente il caporale e i padroni che sfruttano te. Perché tanto odio? Perché per decenni la sinistra ha occupato militarmente il cinema, la cultura, la televisione, impedendo a tutti gli altri di esprimersi, propagandando questo falso mito che la destra non fosse in grado di combinare nulla. La sinistra, i radical chic, con la loro retorica, con i loro piagnistei, per cui vi hanno fatto ascoltare fino alla morte Giovanna Marini, le mondine e i canti del proletariato, ma non avete mai potuto sapere cosa c'era dall'altra parte. Ad esempio, tutta la tradizione popolare dei canti dell'Olgiata. Ma come parli? Lasciami fare. La donna di servizio non fa mai bene i vetri e come esco di casa va a guardare la TV. L'ha presa per l'orecchio e gli ho dato due ceffoni perché deve imparare che cos'è la servitù. L'ho presa per l'orecchio e le ho dato due ceffoni perché deve imparare che cos'è la servitù. Avevo un cashmerino nel salone degli armadi, un giorno guarda caso non lo ritrovavo più. Ma guarda, la negra spaventata me lo fa ricomparire, signore glielo giuro guarderà proprio qua giù. La negra spaventata me lo fa ricomparire, gli ho dato due ceffoni così non ci prova più. E liolà, non ti pago i contributi finché non hai imparato che cos'è la servitù. E liolà, non ti pago i contributi finché non hai imparato che cos'è la servitù. Ladra! E questi ultimi che invece avete sentito adesso erano i Canti dell'Olgiata, una invenzione parodica di Corrado Guzzanti, la cui voce ha introdotto. Il canto ancora precedente era Ama chi ti ama, dalla cantata per Riace, un'espansione del canto delle mondine Ama chi ti ama a cura di Giovanna Marini. E avrete senz'altro riconosciuto nel ritornello dei Canti dell'Olgiata, che musicalmente ricopiano al 100% i moduli dei canti popolari, soltanto il testo è allucinato, lo stacchetto della canzone che per eccellenza parla di lavoro, di padroni, di signori, di figli, ma soprattutto di donne, senza bisogno di presentazioni, in La maggiore su due accordi, La maggiore, Mi maggiore, La lega. Se benché siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli. Se benché siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo. Cromiri col padrone, Cromiri col padrone. abbiamo delle belle buone lingue, abbiamo delle belle buone lingue, se benché siamo donne paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue e ben ci difendiamo. Abbassate la superbia, abbassate la superbia. E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio. Questa era La Lega, da un'esecuzione della quale in un salotto bene qui in culo, quasi Loreto, a Milano abbiamo preso l'immagine di copertina di Folk, Oddio, questa simpatica trasmissione offerta per Radio Virus dalle canzoniere e condotta dalla Carlessa. Mi raccomando, scriveteci a folk.oddio@canaglie.org. Vi saluta in attesa della prossima puntata che si preannuncia del colore della donna per eccellenza, il verde. E vi salutiamo con un canto dei primi anni venti che parla di lavoro, ma di insurrezione anche, che è stato anche un canto partigiano delle Brigate Garibaldi, ma che nasce come canto anarchico e che, come tutti i canti anarchici, ha una gran bella ricchezza nel giro armonico. Quindi, su, gli accordi di Sol maggiore, La minore, ma poi anche Do maggiore e La settima, Re settima nella strofa. Per tornare a Sol, Sol settima, Do, Sol, Re settima, Sol. Avete preso appunti? Sol, La minore, Do, La settima, Re settima, la strofa, Sol, Sol settima, Do, Sol, Re settima. Insomma, state pronte, lavoratrici, lavoratore, lavoratresse, che arrivano i fieri vendicator, i figli dell'officina. Oh, quella che abbiamo ascoltato era l'ultima canzone di questa terza puntata di Folk Oddio, figli dell'Officina. Se non avete capito gli accordi prima, erano so so so so so so so so so so so so la la la la la la la do do la settima re settima. E di nuovo due volte il ritornello sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, settima, do, do, sol, sol, sol, sol, do, e do, que, sol, quella, do, do, do, do, sol, sol, re, re, re, re, re, sol. E in questo sol maggiore vi salutiamo, vi ricordiamo il concorso senza premi Sorelle Partigiane. Alla prossima su Radio Virus, questo era Folk Oddio 3, provate voi a lavorare, ci potete sempre scrivere a folk.oddio@canaglie.org e quindi niente, buon lavoro amiche e amichesse, che c'è ancora tanto da fare.